Radio 24 Reportage. Partito Democratico, l'ultima sfida, di Daniele Biacchessi. Sto all'asticella che fissò Matteo Renzi nel 2013, le altre primarie, 2 milioni di persone. Per me naturalmente voglio il 50%. L'ultima sfida per la segreteria del Partito Democratico si gioca tutta sul numero dei partecipanti alle primarie odierne. Come anticipa uno dei candidati, Andrea Orlando, al recente confronto televisivo su Sky. Quella tra Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano non è dunque soltanto una corsa alla leadership del partito di maggioranza relativa del nostro paese, soprattutto è un punto di non ritorno, in quanto, con ogni probabilità, l'ex premier si dovrebbe aggiudicare le primarie con un ampio margine di percentuale sugli altri due candidati. I sondaggi parlano di una cifra intorno al 65%, prendendosi così l'intero partito. La lunga marcia di Matteo Renzi era iniziata con le primarie del 25 novembre 2012. Quel giorno vinse Pierluigi Bersani con il 44,9%, mentre Renzi perse, ma fu un buon punto di partenza. 1.095.925 voti, il 39,1%. Il suo discorso nella notte colpì molti. Quella di Renzi fu una missione di sconfitta, o meglio, disse da Firenze, una non vittoria. Ho appena chiamato Pierluigi Bersani per fargli i miei e i vostri complimenti per aver vinto le primarie e vorrei che da qui, da stasera, tutti insieme potessimo fargli un in bocca al lupo per la sfida che lo attende, che ci attende, dicendo con molta chiarezza che si tratta di una vittoria netta che nessuna opinione diversa sulle regole può mettere in discussione. Lui ha vinto, noi no, complimenti e buon lavoro. Le primarie del PD 2012 lanciarono Bersani verso la candidatura alla premiership. Alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 il PD prese 8.646.034 voti, cioè 25,43%. Primo partito grazie ai 5 collegi esteri, ma già allora secondo partito in Italia, perché al Movimento 5 Stelle andò il 25,56% delle preferenze. Fu l'impossibilità di avviare un dialogo con il movimento di Beppe Grillo a determinare il declino di Pierluigi Bersani con la successiva investitura di Enrico Letta alla presidenza del Consiglio. La durata di Letta a Palazzo Chigi fu di pochi mesi, perché l'8 dicembre 2013 Renzi si aggiudica le primarie con 1.895.332 voti, 67,55%, cioè non ci fu partita tra Renzi, Cuperlo e Civati. E la partecipazione sfiorò i 3 milioni di persone. Per Renzi, dunque, si trattò di un vero e proprio plebiscito. Grazie soprattutto ai cittadini che oggi hanno dato un segnale che definire commovente è dire poco. Domenica scorsa, qualche decina di migliaia di italiani stremati, stanchi, nauseati dalla politica si sono riuniti insieme per fare il giorno dell'insulto, il vaffa dei. Oggi qualche milione di italiani, vincendo lo stesso disgusto, la stessa fatica, è andata ai seggi per il giorno della proposta, per dire che cosa vogliamo fare dell'Italia, non chi vogliamo insultare, per dire i progetti del paese, non le liste di proscrizione di giornalisti e parlamentari. Gli italiani hanno dimostrato una volta di più di essere migliori della loro classe dirigente e lo hanno rifatto rischiando. Proprio dal successo delle primarie del 2013 nacque la lunga corsa di Renzi verso la guida del PD e del nostro paese. Solo pochi mesi dopo, sull'onda del consenso personale di Renzi, diventato Presidente del Consiglio, alle elezioni europee del 25 maggio 2014, il PD raggiunse il massimo della popolarità con 11.203.231 voti, il 40,81%. L'Italia è più forte delle paure che la attraversano e l'Italia è in grado di incidere nel percorso che si apre in Europa con molta decisione. Io avverto questa responsabilità innanzitutto. L'Italia che è andata a votare ieri ha parlato in modo molto forte. Ho detto in campagna elettorale che non consideravo questo risultato un referendum sul governo. Confermo questo giudizio oggi. Non era un referendum sul governo, non lo considero un referendum sul governo, non lo considero un voto su di me. La spinta europea diede anche uno slancio al Partito Democratico in termini di visibilità, di agibilità politica, di azione governativa, ma iniziarono man mano i dissensi tra la maggioranza renziana e la minoranza sulla democrazia interna e sui temi dell'agenda del governo. A uno se ne andarono i maggiori oppositori, da Stefano Fassina, Pippo Civati, Alfredo Dattore, fino alla costituzione del nuovo soggetto politico di sinistra italiana, organizzato intorno ai fuoriusciti del PD e da una parte di SEL. Ma la diaspora era solo all'inizio. Il referendum costituzionale dello scorso 4 dicembre venne perso da Renzi e lo stesso premier venne costretto alle dimissioni. Ci abbiamo provato. Abbiamo dato agli italiani un'occasione, una chance di cambiamento. Era una chance semplice e chiara, ma non ce l'abbiamo fatta. Non siamo riusciti a convincere la maggioranza dei nostri concittadini. Abbiamo ottenuto milioni di voti, ma questi milioni di voti sono impressionanti ma insufficienti. Volevamo vincere, non partecipare. E allora mi assumo tutte le responsabilità della sconfitta. E dico agli amici del sì che ho perso io, non voi. Lo scontro diventò sempre più duro, dentro e fuori gli organismi dirigenti decisionali, fino alla scissione di Pierluigi Bersani, Enrico Rossi, Roberto Speranza e Massimo D'Alema, confluito nel gruppo Articolo 1, MDP. E questa era una visione vecchia, che adesso il vero antagonismo era vecchio o nuovo, anzi velocità, lentezza, questa idea un po' futurista, abbiamo avuto una stagione futurista, diciamo, in cui quasi marinettiana, diciamo, e fin, ecco, è stato un momento dello strappo, diciamo, è come quando uno si leva il cerotto, è un momento dello strappo, è doloroso, però dopo ci si sente sollevato. E oggi i tre candidati che oggi si battono per la guida del Partito Democratico non si trovano d'accordo su quasi tutti i temi dell'agenda politica e nell'ultimo confronto su Sky le distanze tra loro sono parse incolmabili. Come e con chi farebbe il nuovo governo il suo Partito Democratico? Certo, eviterei con assoluta sicurezza le larghe intese. Hanno fatto male alla destra, hanno fatto male a noi. Sogno un sistema che non sia il proporzionale. Il governo con Berlusconi l'hanno già fatto nel 2013. Io credo che lo deciderà il Parlamento. Che non so tra chi sarebbero, se tra noi e Forza Italia o tra Grillo e Salvini. Lei chi sceglierebbe? Nessuna delle due. Partiamo da un altro tema forte, quello dei migranti. A proposito di numeri, pensate che in Italia ci sono 5 milioni di stranieri, più o meno quanto gli abitanti della Sicilia, e le chiedo se sono troppi. Emiliano, a lei. Innanzitutto interi settori economici riescono a sopravvivere in Italia grazie ai lavoratori migranti. Dunque bisogna attuare nei loro confronti una politica che ne gestisca il flusso. Noi dobbiamo fare in modo tale che chi arriva si possa inserire in un contesto e ci possa essere una possibilità di integrazione. Questo per un equilibrio tra chi arriva e tra chi sta in questo paese. Il problema nostro sono gli scafisti, non le ONG. Che non è pensabile che l'Europa ieri ci abbia mandato una letterina per dire che sui migranti non stiamo facendo abbastanza. L'Europa a noi, ma siamo matti? Regole sicure per tutti e inclusione partendo dal rispetto dei valori della Costituzione. Senta questi vetri in frantumi, c'è un ladro armato in casa, lei possiede legalmente un'arma, cosa fa? Io non ho il porto d'armi, però il punto vero è che sulla legittima difesa dobbiamo fare di più. Io sconsiglio tutti dall'avere, dal possedere un'arma e se sentissi dei rumori, probabilmente quello che ho fatto quando ho smesso di avere l'obbligo di portarla, lascerei la pistola dov'è. Un conto è consentire una difesa, un conto è mandare un messaggio che è sbagliato, che il cittadino possa in qualche modo difendersi da solo. A poche ore dall'esito delle primarie il partito è sceso dal 40-81 delle europee del 2014 alle percentuali attuali stimate tra il 24 e il 27%. L'incognita resta senza dubbio l'affluenza. I 2 milioni di persone che invocava Renzi nel 2013 difficilmente saranno toccati, perché il periodo intorno al ponte tra il 25 aprile e il 1 maggio non favorisce iniziative politiche di questa portata, perché il numero degli iscritti è complessivamente calato dal 2013, perché pezzi consistenti di elettorato sono mai fuori dal partito. Nella sostanza, sopra il milione di persone il partito ancora può tenere, tenendo conto dei tempi. Sotto quella cifra il partito può volgere al declino. Ma al di là dei numeri, delle previsioni, gli elettori del PD sperano che dopo le primarie ci sia un vento nuovo, una speranza di cambiamento, soprattutto una unità del partito. Come indica il sindaco di Milano Beppe Sala, che di primarie e di scontri tra candidati dello stesso partito se ne intende molto bene. La prima speranza è che vadano in tanti a votare. La data non è felicissima, vediamo, io andrò, porterò il mio contributo e invito un po' tutti ad andare. Poi come sempre si tratta di girare rapidamente pagina. Io l'ho vissute e prima hanno portato anche ovviamente a qualche battibecco, però dal giorno dopo per esempio Maiorino è stato con me. Per cui il mio augurio è che servano poi per rimettersi tutti insieme. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.